Radio 24 Reportage. Egitto, Italia, Mediterraneo, di Gianfranco Fabi. Il progetto è ambizioso: creare un'area politica ed economica che comprenda i 27 paesi dell'Unione Europea e gli altri paesi che si affacciano sul Mediterraneo. Quindi paesi molto diversi anche politicamente, culturalmente, geograficamente. E l'Italia in questo vuole e deve avere un ruolo centrale. La geografia è al primo posto perché colloca appunto il nostro paese al centro del Mediterraneo. Ma i problemi da affrontare sono molti e sono anche difficili, sono problemi di rapporti politici. Basta pensare alla penisola balcanica, basti pensare ai rapporti difficili tra Grecia e Turchia, per non parlare del Medio Oriente, dove di pace si parla tanto, ma le possibilità della pace appaiono difficili. In questa prospettiva sta partendo l'Unione per il Mediterraneo, un'unione che appunto unisce i 27 paesi dell'Unione Europea e gli 11 paesi della sponda sud e della sponda est dell'Adriatico. Quindi un'unione che ha sede a Barcellona e in cui l'Italia vuol giocare un ruolo importante. Per fare il punto su quest'unione si è svolto nei giorni scorsi al Cairo un convegno sponsorizzato da Cerve Group in cui hanno avuto voce i protagonisti che stanno cercando di realizzare appunto questo progetto. Sentiamoli. Stefania Craxi è sottosegretario di Stato agli affari esteri. Intanto ho espresso soddisfazione per l'ottimo rapporto bilaterale, strategico, in un pieno spirito di condivisione che abbiamo con l'Egitto, con la dirigenza egiziana, col governo egiziano, un rapporto che in questi anni è molto cresciuto, un rapporto stabile che rientra in una visione più generale della politica euromediterranea. Noi siamo convinti che l'Europa, in un mondo che non è più bipolare ma si sta dividendo in macro aree, macro regioni, ha davanti a sé una sola opportunità, quella di creare nella regione euromediterranea una grande regione di stabilità, di pace, di sviluppo economico, di libero scambio, che sarà la sola opportunità per l'Europa di avere un peso politico sullo scenario internazionale. Paolo Nies, presidente di Cerve Group e direttore di Global Competition. Il cosiddetto progetto di Barcellona o processo di Barcellona parte dalla metà degli anni 90 con l'obiettivo di creare un'area di rapporti privilegiati dell'Unione Europea con i vicini dell'altra sponda del Mediterraneo. Nel 2008, per ridare nuova visibilità, più visibilità e più vigore al progetto, è stata creata l'Unione per il Mediterraneo, che prosegue questo filone senza peraltro sostituire il partenariato euromediterraneo, che continua la sua attività. Noi ci auguriamo che questa attività prenda effettivamente corpo. La situazione oggi è che tutti, credo, condividono pienamente la validità di questo progetto. Abbiamo anche avuto un incontro, una discussione con degli amici egiziani su questo aspetto e anche loro condividono pienamente l'utilità. Il problema è per trovare come dare corpo a questi obiettivi con obiettivi precisi, azioni concrete e risorse adeguate soprattutto. Lino Cardarelli, vice segretario generale dell'Unione per il Mediterraneo. Io direi che l'ambizione certamente c'è, ma è all'interno di una visione molto precisa, molto concreta, che l'Unione per il Mediterraneo io ritengo è in grado poi di rendere possibile. L'Unione per il Mediterraneo è sostanzialmente l'organizzazione di 43 paesi, che sono i 27 paesi dell'Unione Europea e 15 paesi fra la sponda sud e la sponda est, con circa 750 milioni di persone, è il contesto più ampio economico, è il numero uno al mondo per quanto riguarda il prodotto interno lordo. Direi che proprio il passo in avanti che è stato fatto rispetto a tutte le precedenti organizzazioni ed istituzioni che si sono succedute nel tempo per dare sviluppo al Mediterraneo è proprio questa organizzazione, in quanto si è allargata per la prima volta anche istituzionalmente ai paesi appunto del sud e dell'est, e quindi in questo concetto di co-ownership, di cooperazione, certamente ritengo che ci sia maggiori possibilità che non in passato di dare consistenza, dare continuità, dare effettivo vigore e visibilità in particolare alle interrelazioni che ci possono essere fra il nord e il sud. Non a caso i due copresidenti sono appunto il presidente francese Sarkozy e il presidente egiziano Mubarak. Posso dire che l'Italia storicamente, ma anche puntualmente oggi, è certamente il partner mediamente più importante fra tutti i paesi che hanno rapporti con la sponda sud del Mediterraneo. Io vorrei ricordare che è uno dei pochi tavoli, come si usa dire tecnicamente, in cui siedono la Palestina, Israele, la Turchia e la Grecia. E non a caso, appunto, quattro miei colleghi sono appunto un palestinese che si occupa delle acque, l'israeliano che si occupa della ricerca e sviluppo e innovazione, il greco che si occupa dell'energia e invece il turco dei trasporti. Edoardo Reviglio, Chief Economist della Cassa Depositi e Prestiti. Noi siamo coinvolti nella costituzione di questo nuovo fondo, il fondo Inframed, che è uno dei più grandi fondi equity per le infrastrutture, l'energia, le energie rinnovabili e per le infrastrutture urbane. È un fondo che nasce su proprio il primo strumento finanziario dell'Unione per il Mediterraneo, nasce una collaborazione insieme alla francese Cadepot, insieme alla BEI. È un fondo che investe in equity, in progetti di lungo termine, con una filosofia di ritorni non speculativi, proprio con l'idea di favorire lo sviluppo di lungo periodo e la collaborazione tra le due sponde del Mediterraneo. I progetti ci sono, certamente non è facile in Europa, è forse un po' più difficile nelle zone del Mediterraneo. Con questo c'è grande domanda di infrastrutture, nei prossimi 5 anni è stimata in 250-300 miliardi di euro, c'è grande necessità di acquedotti, di reti, di sviluppo urbano. Sono progetti che potrebbero potenzialmente produrre dei flussi di cassa certi di lungo periodo, quindi potrebbero anche attirare capitali dai grandi investitori come i fondi di pensione, le assicurazioni, i fondi sovrani, che cercano dopo la crisi investimenti di lungo periodo stabili e sicuri con un forte endorsement di grandi istituzioni internazionali come le nostre. Luigi Mastrobuono, capo di gabinetto del Ministero per lo Sviluppo Economico. Io ho approfondito soprattutto il campo dell'energia, un campo in cui dopo la crisi che ha toccato tutti i nostri paesi, ora bisogna rilanciare gli investimenti, bisogna ricondividere un quadro di regole anche con i paesi del Mediterraneo che consentano sia gli investimenti sia i ritorni degli investimenti e che consentano all'Italia di avere quel ruolo di hub energetico che attraverso i Balcani, il Nord Africa, stiamo cercando di realizzare. In campo energetico questo è importante per poter soltanto favorire gli interscambi e costruire le infrastrutture, ma soprattutto per dare certezza agli investimenti. Un progetto concreto, quello dell'Unione per il Mediterraneo, che vuole porre le basi di una nuova diplomazia, come ha detto Lino Cardarelli, una diplomazia economica, una diplomazia politica che faccia crescere insieme i rapporti, gli scambi commerciali, i rapporti culturali, ma che soprattutto crei una prospettiva di pace, che è poi quella prospettiva fondamentale per lo sviluppo dei rapporti tra le nazioni, tra gli uomini, per un progresso veramente che rispetti fondamentalmente tutte le persone. Grazie e arrivederci.